got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. No, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. E i film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. No, volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè, per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nudezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 con l'identità, la cucina, la migrazione, con i temi del pregiudizio razziale. E questa sera abbiamo un gradito ospite, il vincitore del MoneyGram Award 2016, un premio italiano che vuole premiare l'imprenditoria straniera in Italia. Imprenditori stranieri che sempre più si fanno largo in Italia, sono 550.000 le aziende a guida immigrata nel nostro paese, questo è il dato della fine del 2015. E sono il 9% del totale delle aziende italiane e producono 96 miliardi di euro di valore aggiunto, il 6,7% della ricchezza. Il più delle volte si tratta di piccole aziende, 8 su 10 sono ditte individuali, ma talvolta hanno anche dei dipendenti, come è il caso dell'azienda di cui parliamo stasera, l'azienda La New Cold System, e lui, il nostro protagonista, è Madi Sakande. Benvenuto. Grazie, buonasera signora Furlanetto. Madi, lei è originario del Burkina Faso, è in Italia da molti anni, no? E poi a un certo punto, dopo varie attività, ha deciso di rilevare questa azienda. Ma prima di parlarne, io so che a Radio 24 questa sera, per questa cena che abbiamo organizzato, lei ci ha portato un piatto. Sì, ho portato un piatto tipico in Burkina Faso, che è il paese d'origine, il mio paese d'origine. Che è la polenta, guarda caso, per dire una similitudine di piatti conosciuti in Italia e soprattutto nella parte nord, che la polenta è il cibo per eccellenza, e guarda caso in Burkina Faso, che è un paese un po' più al sud, comunque è un piatto conosciuto, chiaramente il sugo è fatto in modo diverso, però la polenta è lo stesso. È arrivato in Italia 20 anni fa, giusto? Sì, sono 20 anni fa, io arrivai a fine 97, per cui sono già 20 anni che sono qui in Italia, a Bologna, dal fine 98, per cui io sono 19 anni che sono a Bologna e ho fatto famiglia qui. Ha fatto famiglia qui, moglie e due figli, ha fatto azienda, impresa, business anche in Italia, ma prima di rilevare la sua azienda che si occupa di refrigerazione industriale, lo ricordiamo, si chiama New Cold System, e proprio per la sua attività in questa azienda lei è stato premiato col MoneyGram Award 2016. Che cosa faceva in Italia prima di tutto questo? Che lavori ha fatto? Come è arrivato? Beh, in Italia io arrivai fino al 97 Così per provare, come quasi tutti cercano di fare, trovare una vita migliore. Per me era un'esperienza migliore, insomma, perché prima di partire gestivo un'azienda familiare che faceva import export, però ero ancora giovane, parlavo già, avevo 24 anni, per cui decisi di andare via. I 25 anni li ho compiuti qui in Italia, adesso ne ho 45, per cui sono arrivato lasciando il lavoro dietro, prendendo l'aereo, sono arrivato prima in Belgio con visto regolare, per cui non avevo, cioè, chiaro, visto turistico. Poi dopo sono venuto in Italia, dove c'avevo un parente appunto a Bologna, visto turistico, essendo scaduto diventa un clandestino e dovrà chiaramente trovare possibilità di stare e di vivere in modo legale. Alzavo un po' il pallone, per cui ho avuto un'opportunità di essere reperito durante quei lavori stagionali in Puglia a un centro sportivo che il direttore mi ha visto giocare, allora ha visto me una possibilità, perché no, per trovare un giocatore da piazzare. Quindi ha anche un passato di giocatore. Sì, ma un passato di giocatore che non ha avuto la fortuna di fare neanche, perché mi infortunò subito allenandomi al centro, perché non ho manco avuto la possibilità di fare il test. Però al centro sportivo sono rimasto, ho lavorato e sono stato regolarizzato dal proprietario del centro sportivo in Puglia, e da lì praticamente mi sono spostato definitivamente a stare a Bologna, vicino al mio zio che abitava qui a Bologna. Ci comincio a fare lavori di vari genere, lavorando come merchandiser, poi successivamente come magazziniere per un franchising della Caterpillar, poi successivamente come commesso venditore della Fendi, il primo negozio Fendi a Bologna, che aprì uno dei primi, anzi il primo commesso di colore a Bologna. Poi successivamente ci sono stati altri negozi, diciamo, sono state pioniere anche in quei ambiti. Come è venuto a contatto con questa azienda che poi ha rilevato? Sono 15 anni che lavoro nel campo della refrigerazione e condizionamento, perché cominciai dentro un'azienda qui nel bolognese come magazziniere, poi da magazziniere sono diventata commerciale interno, poi piano piano andavo in giro per l'Emilia Romagna, poi successivamente tutta l'Italia, e la ditta aveva anche l'estero, dove andavo in Slovenia, Croazia, Serbia. Quindi era nel campo della refrigerazione da tempo. Esatto. Poi ha incontrato questa azienda che era in crisi, no? Sì, questa azienda, diciamo, una delle aziende pioniere in Italia nel campo della refrigerazione, era praticamente giunto al momento di non farcela più, e ho detto che forse è il momento giusto per fare qualcosa. Per fare il salto. Quindi ha rilevato questa New Cold System che era in crisi, che si occupa di progettazione, realizzazione e commercializzazione dei componenti per la refrigerazione e climatizzazione, e l'ha riportata in utile. Al momento quant'è il fatturato, quanti sono i dipendenti? Una decina, e siamo intorno a 2 milioni di euro. Fatturato 2 milioni e 100. Sono italiani o stranieri? Sono italiani, però io sono a livello umano, pensando siamo esseri umani, punto e capo, e tutto il resto sono delle considerazioni che nel mondo del business contano poco. Come dicono in America, l'unico colore che conta è il dollaro, che non è sempre vero, però sarebbe il dollaro. Però per il mio caso, diciamo, cerco quanto più possibile di pensare a quell'aspetto lì, al umano, business. Quando assume una persona pensa al suo valore in termini di lavoro, non tanto, certo, appunto, se è straniera o italiana. Signor Sacande, lei è cittadino italiano adesso? Sì. Sì, sono cittadino da 3 anni ormai. Ha deciso, insomma, di diventare cittadino italiano, però per molti anni ha fatto l'imprenditore in Italia non avendo la cittadinanza. È una situazione difficile, no? E lei, so che ha raccontato anche dei pregiudizi dei quali è stato oggetto. Beh, purtroppo quella è la quotidianità, viene fuori nel comportamento. My soul, I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, ma che va, ma che va, ma che bella. Can I get a ooh, ma che va, makes my body dance for ya. Ooh, ma che va, ma che va, ma che bella. Can I get a ooh, ma che va, makes my body dance for ya. È vero che una volta è stato addirittura scambiato per un venditore ambulante? Sì, qualche anno fa io andai in un'azienda per andare a spiegargli cos'è un impianto frigorifero. Il titolare aveva già avuto modo di parlarmi al telefono, allora mi ha chiesto se potevo venire lì e spiegargli un po' come funziona un impianto frigorifero. Allora io andai, quando sono arrivato ho citofonato la segretaria, che sicuramente mi stava vedendo da videotelefono o dalla finestra, non ho capito dove mi vedeva. Io ho detto buongiorno e mi ha detto non vogliamo niente. Sono ritornato in macchina, chiamato il titolare del cellulare, dico guardi, io sono arrivato, ma quante care, non volete niente. Lui chiaramente ha capito la situazione, mi ha detto no signor Sahandi, aspetti, cosa fa, mi perdona un attimo, e poi ha chiamato questa benedizione. E quindi si è risolto l'equivoco. Ci fermiamo brevemente, ma torniamo a parlare tra pochissimo ancora con lei di questi e di altri temi. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart break. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata, vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia. E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro. Ritorniamo in onda con voi a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo con un imprenditore del campo della refrigerazione industriale, si chiama Madi Sakande, è vincitore del MoneyGram Award 2016 per la miglior imprenditoria straniera in Italia. Madi Sakande in realtà è italiano, con la cittadinanza italiana, ma proviene dal Burkina Faso, da 20 anni è in Italia. Sakande ci stava raccontando alcuni aneddoti che le sono capitati quando è stato scambiato per un venditore ambulante, altri che non credevano che il responsabile dell'azienda fosse lei, no? Sì, beh, questo è proprio quello, è l'aspetto che mi dispiace tanto, perché dice io sono italo-burkinabe, perché ho ancora entrambi le cittadinanze, in Burkina Faso è concesso avere un'altra cittadinanza, per cui ho ancora la cittadinanza del Burkina Faso. E mi stringe il cuore pensando che si possa oggigiorno continuare a lottare contro quello che è naturale, no? Perché l'immigrazione purtroppo è un fatto naturale, umano, l'essere umano ha sempre girato intorno all'interesse, ma dai tempi il primo uomo sulla terra, no? Qui è sempre naturale che l'uomo va sempre intorno dove c'è il suo interesse. Cioè uno scappa via o di una guerra o di una morte sicura o di una situazione di pericolo, andare a cercare sempre vita migliore, e nessuno nella vita va a cercare di dire adesso vado di là, faccio casino per piacere, nessuno lo fa. Io le posso raccontare una cosa, sono queste cose che fanno riflettere. Qualche anno fa, quando sono arrivato in Italia, i primi mesi, e mi è capitato una volta di entrare in un autobus e qualcuno si siede di fianco a me e dice: ah, caro amico, ti stai perdendo tempo, amico, tu credi che fai così, ti rispetteranno in Italia, nessuno ti rispetterà mai, se vuoi vieni a lavorare con me, io tu guadagno molto soldi, erano ancora lire, e tirato 200 lire da mano su, 200.000 lire, due biglietti da 100.000 lire, se tu vieni a lavorare con me, io do questo a te, tu vai a comprarti vestiti nuovi subito, vieni con lavorare con me. Io l'ho guardato incuriosito, dico: ma che lavoro fai? Io faccio tutto, io vendo uomini, faccio tutto subito. E poi dopo io sono arrivato alla mia fermata, mi ha tirato dal suo pacchetto di sigarette la parte argentata, quella che copre la sigaretta, e mi scrive il suo numero di telefono, me lo dà, dice: cambi idea, chiamami. Io ho preso il biglietto, appena sceso dall'autobus, il primo cestino che ho visto vicino alla fermata, l'ho buttato lì, non ho guardato che numero erano. Cioè questo qua reclutava qualche gente per fare la criminalità. Io non ero di quelle personali. Però quante persone, lui mi ha detto: tu non sarai mai rispettato qua, tanto tu stai facendo bravo, nessuno ti rispetterà mai. E io questo, fino ad oggi, lo sento tutti i giorni, quella mancanza di rispetto. Il fatto di essere preso per un fannullone, di essere, e non avere alternative, e non avere sbocco, e vedersi sempre trattato in quel modo lì, potrà cadere in questi tranelli. Ma lei la mancanza di rispetto la sente tuttora dopo 20 anni di vita in Italia, dopo molti anni da imprenditore, col suo ottimo italiano, con la sua famiglia? Lei la sente ancora questa mancanza di rispetto? È quotidiano. La forma di informazione generale che viene dato non porta altro, cioè... Non è possibile che oggigiorno si parla solo di immigrazione nel senso negativo, quando c'è anche gli aspetti positivi. Lei prima di cominciare di presentazione parlava dei dati. All'INPS le imprese italiane che lei citavano versano 10,9 miliardi all'anno. E non sono dati miei, sono sempre dell'Istat riferito al 2015 di cui parlava. E dai 10,9 miliardi, 3,5 miliardi sono spese per la cifra di immigrati. Rimangono 7,4 miliardi. E quei 7,4 miliardi servono per pagare i pensioni degli italiani. Gli immigrati non sono solo problemi, ci sono anche delle opportunità per il paese. Can beat the mama Africa, you follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go, the separation of a thousand more. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Non tutti sono degli imprenditori, non tutti sono gente per bene, però c'è anche gente per bene, per cui non fare di tutto l'erba un fascio, perché l'Italia ne guadagna. Noi stiamo parlando delle cose di oggi, ma parliamo anche di domani, perché come la sua trasmissione dice, chi indovina chi viene a cena, cioè, si parlava già di un cambiamento che arriverà. Noi cosa stiamo facendo oggi per il nostro bambino di domani? Perché dobbiamo fare un qualcosa perché questa generazione che viene dopo possa convivere tra di loro. I nostri figli vanno a scuola insieme. Io che sono venuto qui all'età di 25 anni accetto in qualche tra virgolette di essere preso per quello che arriva da fuori, ma mio figlio che è nato e cresciuto qua a Bologna, spiegateglielo dopo fra 10 anni, pure nato e cresciuto con la cittadinanza italiana, che lui non è italiano. Signor Sacande, per chiudere, Burkina Faso è rimasto nei suoi ricordi sicuramente, ma ci torna anche? E che paese è? Perché dall'Italia ne sappiamo ovviamente molto poco. Burkina Faso ci torno e c'ero sotto Natale, se Dio vuole fra una settimana ancora ci ritorno. Come parlavo della mia attività, noi lavoriamo nel campo della refrigerazione, molto non lo sanno, però in Africa si butta il cibo, malgrado che vedete immagini tristi di bambini affamati. In Africa si butta il 70% della produzione e tutte quelle che è derate alimentari deperibili, semplicemente perché manca il sistema di conservazione, la refrigerazione, dove io lavoro e dove sono piazzato abbastanza bene per poter aiutare, perché siamo in Emilia Romagna. L'Emilia Romagna in Italia è la culla dell'agroalimentare d'Emilia per quelle che è tutto quello che è la carne e tutti i derivati del latte. Quindi lei sta per lanciare anche un business in Burkina Faso? Sto guidando un progetto che avrò piacere di condividere per chiunque voglia andare e investire nel mondo del lavoro alimentare, perché comunque sono zone, come dicevo, dove si può investire e guadagnare, perché chiaramente basta conservare quello che producono e si riesce nemmeno in giro di 2-3 mesi dopo a rivendere quel prodotto a dei prezzi molto interessanti, guadagnandoci qualcosa. E io sto guidando questo progetto qua, che ci stiamo lavorando, ci ritornerò la settimana prossima per 2-3 giorni per poter arrivare a finalizzare un progetto che è replicabile in tutti i paesi, in tutte le aree geografiche dove c'è bisogno, perché ne abbiamo bisogno. Ecco, questa è un'esperienza italiana che possa essere portata, perché l'Italia, questo lo dico sempre, ha molto da insegnare ai paesi africani, cioè l'Italia ha molto da insegnare, anche da imparare, anche da guadagnare, collaborando strettamente anche con le diaspore africane che sono qui, perché possono portare il know-how italiano in quei paesi lì dove l'economia è fatta di microimprese. E allora in bocca al lupo per la sua attività in Italia e anche in futuro o nel prossimo futuro in Burkina Faso. Grazie per essere stato con noi, all'imprenditore Madi Sakande. Grazie e buona serata. Grazie a lei, buona serata e buona serata agli ascoltatori. La caratteristica più gustosa della cucina del Burkina Faso è rappresentata dalle innumerevoli salse con le quali si accompagnano tutti i piatti, sia quelli di derivazione francese che quelli tipici del luogo. Il to è il piatto nazionale. Si tratta di una polenta di mais bianco in sapore che viene accompagnata con delle salse. Per il resto, la maggior parte dell'alimentazione consiste in riso o couscous, con salse di verdure, carne o pesce. Purtroppo la cucina locale è abbastanza avara di dolci, fatta eccezione per le frittelle di farina di miglio che si vendono per le strade. In Burkina Faso si trova anche dello yogurt abbastanza denso, tipo quello greco. Ma per finire, la cosa migliore è la frutta: fragole, papaya, manghi e banane. Da non dimenticare la limonata allo zenzero, squisita e soprattutto dissetante, e la birra di miglio o d'olo. E ora invece siamo in collegamento con Massimo Canovi, Head of Southern Europe di MoneyGram. Benvenuto innanzitutto. Buonasera. Allora, lei è a capo di questa MoneyGram del Sud Europa, no? Riconoscimento delle eccellenze dell'imprenditoria immigrata nel nostro paese. Siamo ormai alla 9ª edizione, abbiamo parlato con il vincitore del 2016. Perché e come vi è venuto in mente di premiare le eccellenze dell'imprenditoria immigrata nel nostro paese? MoneyGram è una società che fa trasferimenti di denaro e il nostro cliente tipico è lo straniero che arriva in Italia per rifarci una vita, per aiutare la propria famiglia nel paese di origine, ed è spesso viene vissuto in Italia, e lo sappiamo bene, io dico spesso come lo straniero è brutto, sporco e cattivo, come un vecchio film che molti di noi hanno visto. Noi, appunto, come una società di trasferimenti di denaro che fondamentalmente facciamo profitto attraverso questo tipo di attività, abbiamo a un certo punto deciso di restituire qualcosa ai nostri clienti e abbiamo deciso quindi di contribuire a un po' modificare questa immagine che ha lo straniero in Italia, facendo quindi leva su quello che è più vicino a noi, sul mondo del business. E quindi abbiamo deciso ormai dal 2009 di creare questo premio che individuasse e valorizzasse quegli stranieri che arrivando in Italia non solo hanno aiutato le proprie famiglie, ma in realtà hanno iniziato a portare ricchezza non solo culturale ma anche economica al nostro paese. Lei lo sa qual è l'obiezione che viene fatta in questi casi, no? Ma sono pochi, sono eccezioni. In realtà non è così. Ma se oltre 600.000 aziende sono un'eccezione, d'accordo, considerato che pesano per quasi il 10% del nostro PIL, inizio a pensare che sia difficile considerare questa una eccezione. Quali sono le difficoltà specifiche che un imprenditore straniero incontra? Ma guardi, purtroppo in Italia c'è da dire che qualsiasi imprenditore incontra grandi difficoltà nell'installare un'azienda, le classiche difficoltà date dalla burocrazia, alle quali si aggiungono per un imprenditore queste obiezioni che si hanno, appunto, queste obiezioni abbastanza generiche spesso, sulla affidabilità e sulla sicurezza di un imprenditore straniero. Quindi hanno ancora maggiore difficoltà rispetto agli italiani nel accedere al credito, hanno ancora maggiore difficoltà nel comprendere le nostre leggi, che spesso sono astruse, e hanno grande difficoltà a dimostrare la loro credibilità sul mercato, perché appunto in quanto stranieri sono sicuramente delle persone che non hanno desiderio di fare reddito in maniera pulita, ma sicuramente lo vogliono fare in maniera non legale o non conforme alla legge, cosa che invece abbiamo dimostrato in maniera abbastanza, secondo me, palese che non è così. Insomma, un pregiudizio forte, oltre alla burocrazia. Esatto, come individuate le eccellenze? Nei primi anni abbiamo veramente fatto una piccola caccia al tesoro. Abbiamo iniziato con un sito web dove andavamo noi a cercare queste persone. Consideri che ovviamente essendo molti, probabilmente la gran parte dei nostri clienti degli stranieri, abbiamo sparso la voce tra i nostri clienti chiedendo loro se conoscevano. Con il passare degli anni, con il trasformarsi questo premio in una istituzione, devo dire, oggi ormai non abbiamo più bisogno di andarli a cercare, ma spesso, ormai quasi sempre, gli imprenditori si propongono per far parte di questa selezione. Consideri che a oggi abbiamo valutato circa 1.300 aziende in queste 8 edizioni, ormai siamo alla nona, quindi quasi nona. 1.300 aziende, abbiamo avuto oltre 40 vincitori, 20 finalisti, naturalmente 8 vincitori assoluti, quindi veramente parliamo di numeri molto grandi. Fino a oggi abbiamo premiato soltanto gli imprenditori stranieri presenti in Italia, da quest'anno inizieremo a premiare anche imprenditori stranieri europei, quindi presenti in altri paesi. Partiremo con l'Inghilterra, la Francia, la Germania e chissà che un giorno non potremo fare invece un premio per tutta l'Unione Europea. Quest'anno l'appuntamento dei Moneygram Award è il 24-25 maggio a Roma. Noi lo seguiremo chiaramente e vi proporremo anche nelle prossime puntate altri vincitori o segnalate altri imprenditori importanti che si sono fatti largo in Italia per la loro impresa e che sono stati premiati da Moneygram Award. Grazie a Massimo Canovi, buona serata. Grazie a lei, buona serata. Grazie anche a Peter Bescapè in regia, a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona serata da Valentina Furlanetto. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of